Sai che forse è vero, in queste sere ci pensavo, sono sempre più sbadato e in testa aumenta il desiderio di sentirmi più lontano, ma lontano sai, non ci riesco a stare. E sai che in fondo è vero, l'amore va solo immaginato, è un passo ancora non compiuto ed è non farlo sai il segreto, ma se tutto resta dentro poi la vita sai, ti chiede il conto. Poi mi sembra un po' strano. Il mondo è un gioco alla mano. E prenditi qualcosa, faccia pure signorina, dai permettimi di farlo. Sono il solito cretino, ma con la faccia da bugiardo e con il cuore di un bambino. Sai, sogno spesso di toccarti, ma poi mi sveglio nel cuscino. Portati con te tutte le cose, non guardarmi con quegli occhi, sempre vivi nei miei testi che mi lanciano ricordi. Ancora adesso mi fa male, ma tu amati sempre. Ti sento nelle frasi della gente che cammina mentre parla d'argomenti a cui forse non credeva prima, quando cerco di cambiare in poche ore la mia vita la mattina. Prego, amati sempre. Oh, oh, ricorda, amati sempre. E passami la vita tra le mani, come se passassi il sale, come se volessi il cuore. E il cuore per averlo, sai, basta avercene un altro dentro. Che poi mi sembra un po' strano. Oh, oh, il mondo è un gioco alla mano. E allora via da questo cielo che contiene i suoi pianeti, quelli che ho cantato forte quando volevo ma non c'eri. E lascia che poi il nostro tempo non cammini sempre a tempo, tanto più pensi a un desiderio, più lui si trasforma in vento. E la gente ci guardava come fossimo due alieni, ed io che sono abituato a smascherare i miei segreti, le confesso che non guardo mai i suoi occhi da vicino, perché poi ci casco dentro e non mi accorgo che respiro. E spegni tu la luce che io non mi reggo in piedi, poi la spegni e fai da poco, ma tutto è dentro le mie mani. Vedo ma ti sento, e il letto è diventato mare. Ti avvicini e non so stare a te vicino senza mai.